mă faci pandăca, ca pura rețvenă, ca marăstu amâna. Mestie năsti bracelă, aiut-mă tira, ca stu mare nariela, te vă sempa bracea, vicino mare, facim amore, ancora ancora, vânciși passa, su marinare, e tirarezza, ma ballerezza, stonca morì. E tu stai a guardare, lipisce papriezza, come stanno a zumpare. E vide pure stella, tu fai innamorare, che sto mare tu fai sospirare, vicino mare, facimmo amore, ancora ancora, vincisci passare, sommarinare, e tirarezza, ma ballerezza, stonca morì. Ancora, ancora, vânciși passa, sommarinare, la tirarezza, ma ballerezza, stonca morì. Thank you.